Sono stato preso a pugni dalle storie che mi mancano. E ciò malgrado mi hanno detto che queste cose dopo spossano e stancano. Vorrei acciuffare chi ha reso anche Dio un'altra storta volta. Una aguzzina su chi ha sangue che punisce chi fiata per non pagare un'altra rata. E ogni eccesso perdona dell'imprenditoriale icona. Ma la mia forza langue, sono contento davvero che voi siate felici al posto mio senza di me. Almeno mi sento superiore nell'amare il nemico, anche nella nausea e nel malore. Merito e colpa almeno fanno nella mia se piace a biografia. 50-50 nell'affanno che riteniate la storia un'assurdità sempre priva di ogni gloria, un lento feretro che va solo indietro, una barbarie del tutto staccata e stroncata dall'informatica ondata. Mi fa piacere, almeno non spererò di liquefarmi di sera per una mobile mummia quando ogni ascolto me lo dà un sito folto. Farò senza rimproveri l'impiastro davanti a qualche tasto. Sono contento che vi piace come al solito soffrire a fuoco lento e temere solo un vero sinistro radicamento. Nessuno mi accuserà di essere solo a ruminarmi dentro il dolo, se tanto vi piace pensare contro la pace nella vostra stessa vita, la pace dentro di voi. Sono contento per voi che siete felici al posto mio senza di me, quelli come me che non contano nulla, che sanno nel loro minimo tanti solo per essere insignificanti, sono almeno fra i molto rumorosi per quanto siano morosi. Ingenue capinere. veloci tribunere, il resto è volo veloce di ingegno.